Radio 24. Libera la voglia di fare. Cronache da un paese migliore, di Alessio Maurizi. No, you could have been a wonder, taking your circus to the sky. You couldn't take it on the tightrope, no, you had to take it on the side. You always like it undercover. In particolare il terrorismo funziona oggi dopo il 1989 come grande giustificazione del nuovo terrorismo finanziario imperialistico della talassocrazia del dollaro a stelle e strisce, il quale imperialismo dopo l'89, venuto meno il comunismo come nemico rosso, Berlino 1989, ha individuato nel nuovo nemico verde, quello variamente detto terroristico, non meglio precisato, la fonte legittimante che permette nuovi bombardamenti. Diego Fusaro, italiani, svegliatevi, indignatevi, scrivete tutti sui profili numerosi social di Diego Fusaro e chiedeteli di parlare chiaro, perché non si capisce un tubo, non si capisce un cacchio di quello che dice Diego Fusaro. È un fine polemista, però Fusaro, scherzo, ti vogliamo bene, però potresti ogni tanto utilizzare qualche parola con meno di 14 lettere, perché se no non ce la facciamo. All'altra parte invece insegnano come vivere le persone, insegnano come lavorare, insegnano come parlare. Invece in Italia no, proprio no. Siamo a Roma per la questione dello sgombero. Sentiamo le voci dei migranti che poi si sono spostati al Baobab. Adesso, anzi, da Roma chiamateci per farci sapere se la situazione è realmente sotto controllo o se, risolto il problema di Piazza Indipendenza, si è spostato, come sembra, di poco, perché non si è trovata una soluzione vera. Non c'è posto per noi tutti. Noi dormiamo ieri notte a Tiburtina, a tenda. Senza niente a terra, proprio, senza niente. Non c'è qualcuno arriva qui, qual è il problema, chiede che è successo, non c'è qualcuno arriva qui, chiede questa domanda, nessuno. Allora, si è parlato molto della polizia, del ruolo della polizia, quella frase, spaccategli un braccio se vi tirano qualcosa contro. Dall'altra parte si è vista molto esposta la foto di un poliziotto che abbraccia la donna eritrea. Secondo me un finto problema questo qua. Si è parlato della polizia, ma si doveva parlare di altro. In ogni caso, io in questo caso, ve lo dico subito, abbiamo due ore per stare insieme, difendo la polizia. Chiamate e dite la vostra, naturalmente, all'800 24 00 24. Di Maio, che parla di questo e a cui viene chiesto anche il ruolo eventuale della giunta Raggi, perché quello è un problema. Lui dice si deve occupare dei romani la Raggi, ma quello era un problema dei romani o no? Piazza a Indipendenza notizia, occupata. La frase infelice del nostro agente della Polizia di Stato, che persone che lanciano di tutto contro la Polizia di Stato. Io come gestirei questa cosa oggi? Prima di tutto, chi ha lanciato bombole, chi ha lanciato roba contro la nostra polizia non può avere più il permesso di stare in Italia. E secondo, come si fa a far stare per anni in un immobile occupato abusivamente, quindi in quell'immobile dove non potevano stare, persone a cui l'Italia ha dato il visto di rifugiato? Questo poi è tutto il problema del meccanismo dell'accoglienza. Qui oggi ci troviamo a raccontare un episodio che vede due protagonisti, e da un lato una comunità di persone sgomberate a forza e dall'altro le forze di polizia, nel senso che questo sgombero è venuto con modalità violente, con un uso della forza eccessivo, sproporzionato da parte della polizia e con l'assenza di un terzo interlocutore fondamentale che dovrebbero essere le autorità locali. Ecco, l'assenza di un terzo interlocutore, meno male che lo dice anche il rappresentante di Amnesty International, Nuri. Ma mi fate risentire Fusaro? Risentiamo Fusaro, che non parla mai con frasi che non siano piene di parole, che non abbiano almeno 14 lettere ognuna. Giorno dopo giorno gli attentati da Nizza a Berlino, da Madrid fino alla Finlandia, colpiscono la gente comune, ossia coloro i quali appartengono de jure e de facto alla nuova classe precaria globale post-borghese e post-proletaria, la massa dei dannati della mondializzazione. La tesi del terrorismo come male che attacca l'Occidente serve a creare quella che ho in altra sede chiamato la orizzontalizzazione del conflitto, contrapponendosi ora fra serbi islamici e serbi cristiani, con situazioni financo paradossali come quella del giovane disoccupato islamico di Parigi che pensa che il suo nemico sia il giovane disoccupato cristiano di Parigi e non il nemico comune di entrambi, il solo vero nemico, l'agente della finanziarizzazione capitalistica delocalizzante. La definanziarizzazione che ha detto delocalizzante, non lo so. Vabbè. 800 24 00 24, italiani, iscrivete tutti a Diego Fusaro e chiedeteli di parlare più chiaro, perché sicuramente ha delle grandissime cose da dire, ma a volte non si capisce un tubo. Roma, un assessore a bilancio che va con qualche polemica e uno che viene. Mazzillo, quello che va. Secondo me Virginia Raggi, come tutta la giunta, rappresenta il momento, diciamo, di chiusura, di definizione di un progetto. Personalmente lei, se dovesse fare un ritratto di 5 righe, come la definirebbe? Come persona? Sì, come persona. Sicuramente una persona che si sta in questo momento sta tradendo quello che era, secondo me, quello che era il principio istitutivo, quello con cui si è partito. Cioè, l'assessore Mazzillo uscente dice a Virginia Raggi che sta tradendo il progetto del Movimento 5 Stelle a Roma. Sentiamo invece l'assessore che arriva dalla Versilia, da Livorno, dopo aver risolto abbastanza brillantemente, va detto, la questione di un'altra municipalizzata di Livorno, quella dei rifiuti, col famoso concordato preventivo. Faccio come Fusaro, mi impappino, vai, le metti. Io sono stato chiamato qui e quantomeno per conoscere la squadra e conoscere i consiglieri e poi per mettermi a disposizione della giunta Raggi, come sono stato chiamato qui. E c'è anche Bertinotti, ormai un leader acclamato del meeting di Comunione e Liberazione. Questo feeling va avanti da anni, ormai siamo arrivati proprio all'apice, all'apogeo. Noi dobbiamo reindagare la radice dell'umano. Dobbiamo cioè riproporci il tema della fede, delle fedi, del senso della vita umana rispetto a una meta che ci diamo, una meta, un cammino da intercorrere. Allora, Bertinotti, insomma, chi gliel'avrebbe detto 10 anni fa che diventava uno dei leader di Comunione e Liberazione? Avrà sbagliato, pensiero cattivo, avrà sbagliato lui qualcosa nei suoi conti personali con la vita o sbagliano adesso quelli di CL a prendersi un leader così? C'è anche la vicenda di Don Massimo Biancalani, l'abbiamo ospitato in trasmissione qualche giorno fa, aveva portato dei profughi in piscina, pagando lui il biglietto, eccetera, eccetera, polemica per la foto postata sui social, Salvini tra i primi a dargli addosso. Adesso Forza Nuova dice che vuol vigilare sull'omelia che terrà domenica prossima in chiesa. Sentiamo lui che cosa risponde. La uscita di Forza Nuova, che dire, è incommentabile, siamo alla follia, ora non so cosa dire, sinceramente, che era una forza, un movimento possa arrogarsi il diritto di giudicare la cattolicità di un prete, denota forse più ignoranza che altro, non so, livello di grado anche culturale, non so che dire, è veramente imbarazzante. Stazioni di servizio Costantin, se ti fermi, ti conviene. Vi presenta Si può fare, cronache da un paese migliore. I thought I had it all together, but I was led astray the day you walked away. You were the clock that was ticking in my heart. Changed my state of mind, but love's so hard to find. Your feelings changed like the weather. Went from clear to gray, all that time. Allora, intanto messaggi su Fusaro, perché ha ovviamente i suoi estimatori, se no non avrebbe tutti i follower che ha e non lo chiamerebbero anche in tante trasmissioni, perché è sicuramente un personaggio affascinante. Chi critica Fusaro è un ignorante, dire che non si capisce nulla sembra una forzatura, e io credo che anche questi ascoltatori che dicono che si capisce tutto in realtà non hanno capito niente di quello che dice Fusaro, della com'era la finanziarizzazione delocalizzante, la talassocrazia eccetera eccetera. Però fa figo, no, usare parole così, così è come la vedo io. Poi chiaramente, cari ascoltatori, siamo qua tutta la sera, potete intervenire a difendere Fusaro, tutto quello che volete, 800 24 00 24. E poi era solo uno scherzo. Allora, è con noi invece il coordinatore regionale della Toscana di Forza Nuova, Leonardo Cabras, benvenuto, buonasera. Sì, salve, buonasera a tutti. Allora, avete annunciato di voler vigilare sull'omelia di Don Massimo Biancalani, l'abbiamo appena fatto sentire, il prete che qualche tempo fa portò dei profughi in piscina, postando una foto sui social, però che cosa vuol dire vigilare sulla dottrina, sull'effettiva dottrina di un prete? Glielo chiedo perché... No, certo, beh, in pratica significa semplicemente essere cattolici attenti. Alla fine non abbiamo detto nient'altro che il fatto che andremo alla messa, assisteremo alla Santa Messa, proprio per sentire un pochino cosa viene detto. Cosa vigilare significa appunto essere vigili, essere attenti, che comunque è un compito sicuramente doveroso da parte del buon cattolico. Di fatto, e noi comunque. Ma se lui dovesse dire che l'accoglienza è un dovere del buon cattolico, per esempio, cosa succederebbe? Ma noi potremmo anche ricordare il fatto che crediamo fermamente che ogni popolo ha la sua terra, ogni terra il suo popolo, ed è giusto che loro possano vivere la loro terra senza che siano deportati tramite barconi e quant'altro in Italia, dove poi alla fine la situazione è già abbastanza difficoltosa per noi. Sicuramente per noi è anche una questione identitaria, non ci nascondiamo Però siamo dentro una chiesa, il prete dice che l'accoglienza è un dovere dei cristiani, perché lo dice anche il Papa, e voi dite ma noi siamo per l'identità, però che ci andate a fare in chiesa? Sì, il fatto è questo, che semplicemente la messa è un fatto, non è un fatto dei credenti che vanno lì a sentire quello che dice il prete. Esatto, non è che abbiamo detto che andiamo a messa e facciamo del casino, contestiamo quella. Abbiamo detto il termine vigile appunto significa essere attento, e questo è il suo significato. Il fatto comunque, io vorrei ritornare al punto, nel senso che la provocazione vera, se c'è stata provocazione, e non è appunto stata sicuramente da parte nostra, perché non penso che andare a messa sia una cosa provocatoria. No, andare a messa no, però dire, scusi Cabras, certo, perché questo è un punto importante, perché andare lì dicendo che andiamo a vigilare è una parola precisa, siccome voi siete un movimento di chiara ispirazione, simpatia neofascista, siete per l'abolizione della legge Scelba, siamo anche di ispirazione cattolica, no, ma però siete anche un movimento di ispirazione fascista, e quindi sentir dire vigilare fa pensare che volete andare lì a fare che cosa? A minacciarlo, intimidirlo? No, assolutamente no, noi non abbiamo. Allora, innanzitutto questo sacerdote, tra l'altro, penso che tutti quanti abbiano notato che è stato subissato di insulti da parte di tutta Italia. Noi non abbiamo usato nessun tipo di insulto, semplicemente il nostro messaggio è questo: questa persona, questo sacerdote, noi appunto andiamo lì non perché lo ritiamo un signore qualsiasi, ma un sacerdote con una funzione ben precisa. Ci piacerebbe che parlasse più di religione e non di politica, perché poi si dice che siamo noi quelli che facciamo dell'ingerenza, mentre invece è tutto il contrario. Ormai la Chiesa fa solo della politica, tra l'altro la radical chic buonista, parlando anche in maniera noi sicuramente adesso abbiamo già parlato comunque del fatto che molte dichiarazioni che escono dal Vaticano assomigliano a quelle del lobbista Soros. Stiamo parlando di Soros, di uno che appunto ha fatto Papa Francesco come Soros, secondo voi? Esattamente, sicuramente Bergoglio è come Soros. Questo ormai purtroppo è così, e noi vogliamo far sì che ormai questo Però quello che non capisco, Cabras, dalla provocazione da parte di questo sacerdote. Questo sacerdote cosa che ha fatto? Ha fatto un post molto, usando un eufemismo, spavaldo, dicendo che appunto i suoi amici sono gli africani nella piscina e i suoi nemici sono i fascisti. Ma non è che ce l'aveva con noi, perché se a noi ce l'hanno i fascisti non ce ne frega nulla, siamo contenti, va bene, la verità. Il fatto è che lui ce l'aveva con tutta la cittadinanza di Pistoia, perché a Pistoia adesso ha vinto il centrodestra, quindi sono tutti brutti, cattivi e fascisti. Ma non è che il centrodestra non è che tutti del centrodestra hanno le idee di Forza Nuova, assolutamente. Ma infatti noi non siamo di centrodestra, non siamo neanche di destra, però il fatto è che la provocazione è partita da lui ha fatto un attacco a tutta la cittadinanza di Pistoia. che appunto poi comunque ha anche risposto, ecco. Diciamo che quindi cioè il punto dell'attenzione è proprio questo, gli italiani comunque si sono rotti le scatole di comunque questi sempre più... Ma guardi Cabra, se io dico che uno la può pensare, sì, come vuole sull'immigrazione, ma... può dire che l'immigrazione va fermata, che il governo ha sbagliato tutto nella gestione dei flussi, dell'accoglienza, sì, che c'è un business incredibile su cui si sta speculando, si la può dire tutto questo, però io quello, la prima volta nel 2013, sì, io no, quello che non capisco è il metodo di Forza Nuova di dire vado in chiesa a vigilare quello che dice il prete, lo deve vigilare il vescovo, il papa, non voi, che c'entrate voi? Noi ci fa sorridere. No, noi c'entriamo perché siamo cattolici. I cattolici possono... Sì, ma io non vado dal prete a dirgli quello che dovrebbe dire. Se non mi interessa... No. Scusi, Cabra, se finisco, sì, poi la faccio parlare. Certo. Se a me non mi piace quello che dice il prete, io infatti non ci vado proprio in chiesa. Perché voi dovete andare in chiesa a dire... Perché a Don Massimo di dire quello che volete voi. Forza politica. Perché siamo anche una forza politica. Perché voi fate politica, ma lui no. Però vede che... silenziosa della popolazione che non ne può più di questi preti che continuamente... Sì, ma andate dai politici, non andate da un prete. Scusi, lei ha detto che il prete fa politica e sbaglia, poi va in chiesa a fare politica e allora sbaglia anche lei, però. No, ma io non ho detto che vado lì a fare politica, io ho semplicemente detto... Lei ha detto che va in chiesa perché fate anche politica. Non posso fare, no, appunto, perché siamo anche un movimento politico, quindi ci muoviamo anche, non è che noi ci occupiamo di, non facciamo religione, seppur comunque Forza Nuova è un movimento di ispirazione anche cattolica, è stata fondata il 29 giorno di San Michele Arcangelo, che è il nostro protettore, sì, quindi certe cose a noi stanno molto molto care e a maggior ragione le difendiamo. Il nostro non è stato e non sarà un attacco alla Chiesa, ma è un attacco, sì, è una presa di posizione proprio per difendere questa Chiesa che ormai purtroppo spesso scende in queste provocazioni, perché ripeto, la sua è stata comunque una provocazione nei confronti di tutta la cittadinanza di Pistoia. Si occupasse magari di ospitare, di aiutare comunque, sì, però non sarebbe più italiani. Semplice prendere atto che in questo momento la Chiesa, anche il Papa ha detto che l'accoglienza è un dovere, la Chiesa la pensa così. Se voi non la pensate così, non c'è niente di male, però perché dovrebbe questo venisse a casa sua e dicesse questa sera dovete mangiare la minestra con i peperoni, no, a noi non piace, no, dovete mangiare per forza sta minestra, questo però a casa mia è fascismo, Cabras, questa a casa mia è fascismo. Io semplicemente se c'è una persona che dice una cosa, dico voglio essere attenta a quello che dice per capire meglio cosa dice, come la dice, e poi appunto prendere le mie conclusioni. È una cosa, a parte, va bene, allora avete sbagliato parola a dire vigilare, non dovevate dire che andavate a vigilare, andavate a sentire messa, basta. Forse era più semplice dire così. Sì, beh, certo, ma il fatto appunto non era, noi non andavamo semplicemente a sentire la messa, il termine giusto è vigilare, proprio perché la nostra intenzione era dare messaggio, attenzione, noi siamo attenti, continuiamo a fare questa cosa in tutta Italia, come facciamo e continuiamo a fare tante altre battaglie. L'immigrazione per noi è solo uno dei nostri 8 punti, abbiamo 8 punti che sono fermi dal 97 e le nostre battaglie sono ampie, lavoriamo a 360 gradi. Chiaramente ad oggi l'immigrazione è la cosa più sentita, perché c'è un'invasione, la gente veramente non ne può più, ci sono aggressioni continuamente. In Toscana stiamo facendo passeggiate per la sicurezza in tutta la Toscana e la gente ci chiama per farle e partecipa alle nostre passeggiate chiedendo di farle. Va bene, quindi il problema è sentito, non è che torniamo su Don Massimo, la voglio, sì, le faccio sentire anche perché l'abbiamo intervistato qualche sera fa e sentite cosa ha detto, sentiamolo un attimo, pezzettino. Ha pagato lei il biglietto? Curiosità. Certo, un biglietto scontato. Quanto costa il biglietto? È costato 6 euro a persona, 10 ragazzi, e un biglietto normalmente la piscina fa a tutti gli enti che lavorano nel sociale. Se io lavoro con con persone con handicap ci sono questi prezzi. È la prima volta che andava in piscina con dei parrocchiani di quel tipo o c'era stata altre volte, mettiamo a caso, con degli italiani? Abbiamo fatto con i ragazzi esperienza al mare e andremo al mare anche con i migranti. Vabbè, questo era Don Massimo, gliel'ho fatto sentire perché sta sul pezzo, dice io ospito degli italiani, degli stranieri, anche degli handicappati, vado in piscina, pago io il biglietto per questi profughi. La domanda secca è che cosa ha sbagliato secondo voi Don Massimo? Ha sbagliato, non è tanto la questione della piscina o meno, noi della piscina non ce ne frega nulla, ha sbagliato il fatto che la sua, ripeto, è stata una provocazione, perché ha scritto questi sono i miei amici, i fascisti, tutti gli altri sono i miei nemici, e tra l'altro appunto non prendendosela con il politico di centrodestra, con noi, non era anche perché non era questo il senso, ma proprio prendendosela evidentemente con la cittadinanza, con la gente di Pistoia, che comunque non sarà tutta, probabilmente non è tutta d'accordo, diciamo, con lui, con le sue idee, tra l'altro comunque sì. E adesso noi ci siamo presi anche dei sacrileghi, va bene, va benissimo tutto, anche se ripeto, noi siamo un movimento di ispirazione cattolica, ovviamente continueremo ad esserlo, però a noi ci fa molto sorridere che comunque Sua Eccellenza il Vescovo dica guarda questi sacrileghi profanatori e quant'altro, quando comunque questo prete è uno che a livello proprio dottrinario di base, ma non perché diciamo sì. Perché li dice lui, organizza, cioè dice che il fatto che le donne devono essere preti, quella è proprio il classico modernista che comunque le spara grosse, probabilmente questo, piace, interesse mediatico, questo interesse mediatico gli va anche bene, però appunto il nostro messaggio è tanto nei suoi confronti il fatto di dire attenzione, appunto Forza Nuova continuerà come fammi le altre battaglie. Vabbè, a fare anche comunque sul fatto della piscina, se fosse stato solo per quello non avrebbe fatto niente di male, questo mi ma diciamo che comunque poteva evitarlo sicuramente, non c'era proprio questo bisogno, ma perché ci sono comunque, noi per esempio nella provincia di Pistoia aiutiamo 60 famiglie dove portiamo mensilmente alle volte appunto anche settimanalmente, facendo delle raccolte con la nostra associazione Solidarietà Nazionale che aiuta sì. solo gli italiani, noi aiutiamo queste famiglie italiane, quindi c'è già tanta gente da aiutare e per noi ma è quello lui dice che aiuta tutti, che aiuta gli stranieri, gli italiani, e noi aiutiamo disabili. Il nostro prossimo perché non c'è bisogno di aiutare gli altri perché il prossimo vanno, se viene dal Congo non è prossimo, se viene dal Congo no, non è un prossimo, no, perché non è prossimo, è appunto lontano, è cioè le sta a fianco qua. Ma lei non lo vede proprio pur essendo no, visibile, non è prossimo, non è vicino, no, è lontano, io penso, ma non io, cioè non è una questione, secondo me è una questione oggettiva. Vabbè, per lei il prossimo è tutti quelli che non sono neri, il prossimo è tutti quelli che non sono neri, ho capito. Lei ha firmato una petizione per mettere fuori legge l'AMPI, le voglio chiedere questa cosa qua, l'associazione dei partigiani, che per certi aspetti anacronistica sicuramente, però perché fuori legge l'AMPI, cosa fa che non è in regola con la legge? Beh, a parte che l'AMPI c'è, cioè, l'associazione che dice che va avanti con i reduci e quant'altro, invece continua, pur di andare avanti, pur di continuare a rubare i soldi allo Stato, prende tessera pure i ragazzi, quindi una cosa senza senso, cioè i partigiani, come fai adesso a tesserare un partigiano e tesserare i ragazzi proprio perché così possono continuare a prendere soldi e ad esistere, perché sennò non esisterebbero. L'AMPI ogni volta che noi ci muoviamo prova a fare qualcosa, sono sempre di meno, un po' ci dispiace, giustamente fanno il loro, sta di fatto che è ovvio che a livello politico, ma nemmeno sono diametralmente opposti a noi, stanno proprio indietro, noi non li consideriamo. L'AMPI anche recentemente ha fatto un attacco contro di noi perché diceva che ci stiamo muovendo troppo. Beh, siamo ad agosto, ci siamo mossi tantissimo ad agosto, figuriamoci a settembre-ottobre, quindi questo è solo l'inizio. Va bene, grazie, buona serata Cabras, buona arrivederci. Allora, 800 24 00 24, siamo qua dopo la borsa. Fiera del Levante, riscaldamento a legna e pellet, pftecnologie.it vi presenta Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. Allora, dopo l'intervista con Leonardo Cabras di Forza Nuova Toscana, che vuole andare a vigilare domenica alla messa di Don Massimo Biancalani di Pistoia, quello di Vicofaro che ha portato i profughi in piscina, andiamo con i vostri ascoltatori, con i vostri interventi, cari ascoltatori. Faccio casino anch'io, come Fusaro, stasera ce l'ho con Fusaro. Mi fate risentire un Fusaro da qualche parte? Sì, preparatelo, vai. Sara da Prato, buonasera, benvenuta. Sara? C'è? Sì, ci sono. Eccola, vai. Niente, io volevo parlare a quel rifugiati eritrei, essendo io eritrea, che non lo trovo giusto. Non che non lo trovo giusto, che loro non è giusto che loro occupano la casa, però non è neanche giusto, essendo rifugiati accolti, che si trovano anche per la strada. O non c'è bisogno di accoglierli, di dare dello status di rifugiato, certo. Non si prende l'impronte, possono fare la scelta di andare anche in altri paesi, perché non sono terroristi, Se no così rimangono intrappolati senza lavoro, senza un futuro, senza niente, e poi vengono anche trattati così. Io non mi sembrava neanche giusto per me. Va bene Sara, grazie, buona serata. Grazie. Andrea, sempre da Roma. Pronto? Eccolo, vai. Eccoci. Io invece volevo riferirmi alle sue, come dire, suoi commenti molto ironici su Fusaro. Ora, certamente siamo tutti d'accordo su un elogio piuttosto criptico, sì. Quello del filosofo. È bello questo, Andrea, un elogio piuttosto criptico non è male. La supercazzola, volendo dire scherzosamente. Scherzosamente. Sì, no, sono d'accordo, scherzare si può. Però, ecco, diciamo pure che quando lui fa riferimento, sì, con termini non sempre così chiari, allo strapotere di una finanza internazionale che spesso definisce apolide, perché di fatto non ha uno stato d'appartenenza specifico, sì, che ha sottratto il potere agli stati nazionali, lo abbiamo visto con la Grecia e lo abbiamo visto anche con il ricatto della Troica nel nostro paese, e alle attività svolte da alcuni partiti politici che hanno avuto nel tempo delle metamorfosi davvero, improbabili e imprevedibili. Mi riferisco alla difesa a spada tratta di Banca Etruria e tutto quel sistema, sì. Probabilmente Fusaro non ha tutti i torti. Se poi fosse in errore, io non ho detto che è in errore, io dico, no, ho solo detto scherzando, che a volte non capisco quello che dice, ma ripeto, è ironico. Fusaro sicuramente, in ogni caso, perché il riferimento, io che non sono uno specialista in economia, nemmeno in filosofia, deduco che fa riferimento a queste problematiche. Non sono un fine intellettuale, quindi è vero che per quanto, come dire, complesso come linguaggio, ci si può arrivare. Ora io mi aspetterei da voi, che siete degli specialisti, di chiarirci queste posizioni, se le sue accuse, le sue invettive contro questo sistema corrispondono alla realtà delle cose o se sono dei deliri. Cioè dovremmo tradurre Fusaro in italiano. Non tanto tradurre Fusaro, perché in qualche modo me lo sono tradotto da solo, pur senza essere un addetto ai lavori. Ma aspetterei da voi, che siete invece degli specialisti dell'economia, un chiarimento sulle posizioni di Fusaro, se sono come dire delirio puro o se hanno qualche corrispondenza con la realtà. Andrea, grazie. Io non ne so niente, grazie a te, io non ne so niente delle posizioni di Fusaro, un po' perché non lo seguo particolarmente, un po' perché non sono necessariamente un esperto di economia, probabilmente lui da filosofo si deve confrontare con degli economisti per diciamo rendere forse più concreto il dibattito, che a volte sembra che si alzi un po' un gran polverone, no? Dentro cui ci può stare tutto e il contrario di tutto, ma è affascinante. Del resto anche il ruolo del provocatore, del filosofo, è quello anche di alzare a volte, ogni tanto anche sì, perché no, il livello della discussione. Chi c'ho? Mimmo da Napoli? Sì, salve. Vai. Stavo ascoltando la trasmissione e purtroppo con mia poca soddisfazione vedo sempre che queste discussioni vertono sempre su discussioni su razzismo, fascismo e quant'altro. Io volevo sapere una cosa, ma come cittadino italiano in questo paese è ancora possibile dissentire oppure no? Cioè un cittadino può non essere d'accordo su una posizione. Su quale posizione, Mimmo, in particolare? Su quale posizione? Ma Mimmo, tutto il giorno senza fare niente in mezzo alla strada, posso dissentire o mi chiamano razzista o sono un fascista? Ma chi è che la chiama fascista o razzista? No, ma non anche per la questione di Roma. Mio cognato lavora al ministero, da Roma centro ha dovuto comprarsi una casetta di 24 metri quadrati che si trova a Ciampino, che ha pagato 155.000 euro. Ci voglio stare pure io nel palazzo Termini, senza pagare luce, senza pagare gas, senza pagare acqua, senza pagare tasso della spezzatura, IRAP e quant'altro. Quindi, ma però questo lei lo può dire, Mimmo, non capisco perché la sua l'inizio del suo discorso è stato che non le fanno dire queste cose. Sì. Nelle discussioni pubbliche vengono intervistati più politici che cittadini. Intervistati cittadini indignati come me, che dalla mattina alla sera siamo costretti a vedere il degrado nelle nostre città, degrado che è moltiplicato in una maniera che non è possibile vederlo attraverso un social network o neanche un salotto televisivo, dove persone incravattate discutono un po' schifate dell'idea dell'italiano che invece è fascista, che vengono ancora agganciate delle ideologie classiche del razzismo, del fascismo, che in questo contesto non c'entra nulla, c'entra soltanto che l'italiano dovrebbe essere dato per ascolto per dirgli qual è la sua intenzione in questo campo. Sì. La mia, guardi, persona del sud, io sono indignato che il nostro governo faccia entrare tante persone e gli permetta di occupare abusivamente a nessun titolo delle proprietà che potrebbero essere anche mie o di altri italiani. E su questo, mi creda, non c'entra né il razzismo, né il fascismo e nessun'altra ombra del passato. Mimmo, io sono abbastanza d'accordo con lei. Infatti, secondo me, il problema, per quanto mi riguarda, visto che tira in ballo un po' tutti in generale, e il dibattito, i giornalisti, le trasmissioni che ospitano o non ospitano, per quanto riguarda Roma, il problema non è lo sgombero e la polizia. Lo sgombero di una occupazione illegale, io credo che sia sacrosanto, non era tollerabile, una situazione di degrado ma anche di pericolo per i romani. Il problema è la politica, che non trova mai delle soluzioni alternative di gestione dell'immigrazione, di prevenzione anche. Se uno è contrario e dice io non vorrei che ci fosse l'immigrazione in Italia, bene, però questa è proprio la carenza della politica, che non riesce a gestire i fenomeni a livello nazionale ma anche a Roma. Però, perché dire, come ha detto Di Maio, che quello non è un problema dei romani, è sbagliato, perché Piazza Indipendenza, con quell'occupazione abusiva, era una cosa che stava al centro di Roma, quindi era un problema anche dei romani. Il razzismo, se posso dire, Mimmo, secondo me non è nello sgombero, semmai è nella testa di chi pensa che questo problema si possa risolvere solo col manganello, solo con l'idrante, solo dicendo non vi vogliamo, no? Perché queste persone qua non hanno nessuna colpa se non il fatto di essere stati dichiarati profughi, punto. E così ho chiuso la filippica. Mimmo, sei ancora in linea? Sì, sono ancora lì, sono ecco, sì. È rimasto posso senza... replicare? Sì, sì, prego, prego. Allora, innanzitutto io non direi che siano... Allora, la parola profugo deve essere distinta dal richiedente asilo, deve essere distinta dalle persone che vengono dai cosiddetti migranti. Sì, quelli però erano profughi, quasi tutti, quelli erano già stati dichiarati tutti erano profughi. Io ho letto sulla non Repubblica, tutti, mi sembra di aver letto che queste persone già 2 anni fa gli avevano dato degli alloggi alternativi, addirittura si parlava anche di alcune villette a Tivoli. Sono loro che volontariamente hanno deciso di stare a ridosso del centro storico romano, cioè in quella piazza, occupando quella, vuol dire che loro volevano stare al centro di Roma per i loro problemi, per i loro comodi. Chiamali festi al centro di Roma, un buco da 20 metri quadrati ci vogliono 1000 euro al mese, se sono un italiano e vado a affittarmi un appartamentino nel centro di Roma o in Piazza della Stazione. Loro invece, in 400 persone, occupavano un intero palazzo, chiaramente poi senza pagare nessuna spesa, nessuna. Quindi di che cosa stiamo parlando? No, stiamo parlando del fatto che l'occupazione era abusiva e anche secondo me andava tolta di mezzo, però trovando una soluzione, trovando un modo di parlare con queste persone, no, di mediare, se c'era qualcuno irregolare doveva essere espulso. Ma la soluzione era stata altrimenti... trovata, era loro che non volevano lasciare quell'immobile, perché quell'immobile si trovava a ridosso del centro di Roma, a loro faceva comodo restare in quell'immobile. Perché le alternative a cui erano state... Guardi, dati, è stato cioè, detto però, Mimmo, è stato detto che c'era un piano che era stato aperto da un anno, che si discuteva di questa questione, però poi le autorità locali non hanno portato a termine questo piano, che prevedeva con la proprietà, con la prefettura, col comune, di trovare delle soluzioni. La polizia stessa ha detto che quando sono arrivati la mattina non sapevano dove avrebbero mandato queste persone. La soluzione che lei dice è stata trovata con un vertice in prefettura a sgombero avviato la mattina. Non puoi, secondo me, sgomberare una situazione illegale da 4 anni arrivando la mattina stessa a trovare una soluzione. Questa è una cosa all'italiana. Questa è come la penso. Avevano soltanto il compito di tirarli fuori da dove stavano, per poi rimetterli in strada, per poi doverli ricollocare da qualche altra parte. Ma non puoi metterli in strada, perché quelli occuperanno qualche cos'altro, capito? E questa è la follia, che si sgombera e poi infatti si sono spostati in una piazza, dopo sono stati al centro al Baobab, eccetera eccetera. Questo è... non è così che si risolve un problema, è evidente che non è così. Questo mi sembra incontestabile. Ci vogliono delle altre idee, delle altre soluzioni, altrimenti li sgomberi e te li ritrovi da un'altra parte. Questo è quello che è successo, Mimmo, è inutile girarci intorno. Ed è ancora così, perché credo che la situazione a Roma non sia ancora del tutto sotto controllo. Potrei sbagliarmi, ma non credo. Mimmo. Praticamente concludo, ecco, è che in queste discussioni non c'entra né il fascismo né il razzismo. Perché perché quando io dico che tante persone per strada che non fanno niente dalla mattina alla sera, a me personalmente danno fastidio, sì. Il colore della pelle non ha nessun intervento, può essere gialli, bianchi, di qualsiasi altro colore, che siano nere è soltanto un caso, però che milioni di persone che arrivano da un posto dove ci sono 300 milioni di abitanti, che arrivano in Italia e arriva anche il prete che li porta a fare la passeggiata in piscina, per me è soltanto uno spot che invoglia altre persone dai luoghi di origine, della Libia, dell'Africa, dell'Africa subsahariana, dalla Nigeria, sono degli spot a fare in Italia, ben dice Berlusconi, dice anche lo Ius Soli, è uno spot che fa vedere alle persone venite in Italia che ci sono, c'è modo per vivere alla grande, per poter occupare abusivamente gli spazi. Va bene, va bene Mimmo, grazie, devo dare la linea al traffico, torniamo tra pochissimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, oggi nella giornata d'agosto, di fine settimana, da inizio di fine settimana d'agosto, abbiamo letto la notizia: sciopero dei dipendenti delle province e delle città metropolitane. Primo riflesso condizionato è quello di dire: ma come le province? Ancora ci sono le province? Non le abbiamo abolite? No, non le abbiamo abolite, le abbiamo abolite a rate, ma non sono state abolite. E infatti ci sono ancora lì i dipendenti che però scioperano. Perché? Lo chiediamo a Natale Di Colla, segretario regionale della funzione pubblica CGL in Lazio. Benvenuto. Buonasera. Allora, qual è il motivo di questo sciopero dei dipendenti delle province? Le province italiane sono state abbandonate dai governi, dopo le riforme sbagliate adesso ci troviamo in una situazione paradossale, le province svolgono delle funzioni importanti, ne cito le tre più importanti per capire, la manutenzione di tanti edifici scolastici, la manutenzione e la viabilità di una parte importante della rete, diciamo, delle strade del nostro paese, e la tutela anche di pezzi dell'ambiente. Per far questo, dal 2008 in poi, da quando è iniziato questo balletto, si sono stati soltanto tagli, c'è il blocco totale del turnover, e il risultato è che gli enti cominciano a non chiudere i bilanci, gli enti cominciano a non poter svolgere i servizi e gli enti cominciano a non pagare gli stipendi. Cioè, ricapitoliamo un attimo, riepiloghiamo un attimo, perché ci sono stati dei tagli, anche perché si pensava che le province progressivamente dovessero essere chiuse, abbandonate, anche se ricordiamo che la riforma del Rio del 2014 non chiudeva le province, le trasformava in enti di secondo livello senza il personale politico nuovo eletto, no? Eccetera eccetera, ma mantenendo le competenze in alcuni ambiti, quelli che ha ricordato lei, il resto doveva passare ai comuni, però anche lì in molte realtà sono passate anche alle regioni, però anche lì con molti ritardi. Nel frattempo però si rimandava ad una legge successiva alla riforma bocciata però il 4 dicembre, quindi un pasticcio totale, una legge che abolisse definitivamente le province. Siamo rimasti a metà del guado, quindi le province di fatto, la pancia delle province c'è ancora, l'unica cosa che non c'è più sono i politici eletti, se abbiamo capito bene. No, sono i politici eletti, ma in molti casi l'esempio di Roma è eclatante, anche la direzione però politica, il Consiglio Metropolitano non si riesce a riunire, mancano in tanti casi anche le direttive e siamo in uno stallo totale. Per capire i numeri, a Roma le scuole che devono aprire a settembre sono più di 300, i chilometri da dover manutenere sono oltre 2000 e noi abbiamo il rischio che il Comune di Roma e la provincia di Roma ancora non può chiudere il bilancio, e il rischio è che nel 2018, nel 2019, se si continuerà così, si andrà sempre peggio, perché con il blocco totale anche delle assunzioni il personale continua ad andare in pensione. Ricordiamo che in Italia i dipendenti pubblici hanno una media di età tra le più alte d'Europa, e quindi il risultato è la riforma non è stata compiuta, la riforma era per noi anche sbagliata, l'abbiamo sempre contestata, ma il risultato è che a pagarne le conseguenze oggi sono i cittadini in primis e i lavoratori, che in tante realtà, in tante province d'Italia sono anche 6-7 mesi che non prendono più lo stipendio. E invece per quanto riguarda le città metropolitane, perché 10 delle oltre 100 province sono diventate città metropolitane con un progetto, quindi diciamo futuro o futuribile, lì le cose vanno meglio o no? Purtroppo i in molti casi sono peggio. L'esempio di Roma è sempre eclatante, perché si immagini che il sindaco della città metropolitana è il sindaco della capitale, e con tutte le beghe che ha la capitale, quanto tempo possa dedicare alla gestione della città metropolitana il sindaco di Roma? Quindi abbiamo la tempesta perfetta: nessun investimento, nessuna direzione politica e tanta incertezza. È davvero imbarazzante che non c'è stato quell'effetto di efficientamento della macchina pubblica, ma neanche quell'effetto anche di investimento sui servizi. Quindi è davvero una vertenza che va avanti da tanto tempo, e siamo stati costretti, sono 6 mesi che c'è lo stato d'agitazione, sì. Siccome il governo non risponde in nessuna sede, siamo stati costretti a proclamare una giornata di sciopero. E tanto per organizzarci e per capire, lo sciopero è stato indetto per il giorno? 6 di ottobre. E che cosa dobbiamo aspettarci, che quali tipo di servizi potranno essere interrotti? Ma noi speriamo, abbiamo scelto una data abbastanza avanti nel tempo, che la politica finalmente ascolti il grido d'allarme. Nel mese di settembre ci saranno iniziative di sensibilizzazione, perché noi vorremmo anche spiegare ai cittadini quello che accade, cioè come negli anni i servizi sono diminuiti, come negli anni i problemi sono ricaduti sui cittadini. Quindi speriamo che da qua al 6 di ottobre il governo faccia qualche cosa e risolva dei problemi, perché un altro dei grandi temi che riguarda le province è i centri per l'impiego. Cioè, uno dei grandi problemi del paese è la disoccupazione. Sui centri dell'impiego c'è un'altra vertenza in corso, dove lì rischiamo anche i licenziamenti, perché lì ci sono tanti precari che a oggi non hanno avuto neanche nessuna risposta. Quindi ci aspettiamo che la politica riesca da qua a ottobre a risolvere e evitare ai cittadini questa ulteriore protesta. Grazie Nicola, buona serata. Il segretario della CGIL Lazio, questa è la situazione per quanto riguarda i dipendenti delle province e delle città metropolitane. Pierluigi da Reggio Emilia, buonasera, benvenuto. Sì, buonasera. Vai. Intanto ho ascoltato prima e sono rimasto allibito nel sentire che la polizia va a sgomberare a Roma centinaia di extracomunitari senza avere un programma per dove mandarli. Cioè, vuol dire che è dura credere una cosa del genere, vuol dire esasperare le persone e mettere la polizia poi in condizioni di dire certe cose e di fare delle figuracce che con la metà basta. L'altra considerazione che volevo fare è questa: ho visto che a Roma mi risulta che lì vicino ci sia la città del Vaticano, ma perché il nostro Papa non dice che li accoglie lui queste persone, non fa un'opera buona? Oltre a chiamarli, potrebbe anche ogni tanto dire: vabbè, ci siamo noi, visto che degli immobili lì a Città del Vaticano che affittano regolarmente ai turisti che arrivano, ne hanno tanti, per ospitare 200 persone farebbe un piccolo sforzo e farebbe una gran bella figura. Tutto qui. Sì, però quando poi i preti ospitano i profughi nelle parrocchie, vi incavolate lo stesso? No, io non mi incavolo mica, io proprio assolutamente no. No, perché in genere l'argomentazione è quella, che li ospiti in Vaticano, che ci può anche stare come provocazione, ma anche come realtà, no? Però poi molti preti ospitano tanti profughi in parrocchie e si beccano comunque le critiche, perché dovrebbero aiutare gli italiani. Allora, quale delle due è la verità vera, allora, secondo te? Almeno dal tuo punto di vista, Pierluigi. Certo, dal mio punto di vista è questo qua. Io non sono di Forza Nuova e questo qua non ci piove sopra. Quindi per me i preti possono portare gli extracomunitari in piscina, che a me non me ne frega niente. Io la differenza sugli extracomunitari la faccio solo in una cosa, che la differenza la faccio tra chi si comporta bene, tra chi lavora, tra chi paga le tasse, chi delinque, chi non si comporta bene. L'unica differenza che viene fatta è questa. Va bene, Pierluigi, grazie, buona serata. Ibrahim è dalla provincia di Monza, Brianza. Vai Ibrahim. Buonasera. Allora, io volevo fare un intervento un po' in funzione di tutto quello che è stato detto. Sì. Per quel che riguarda l'intervento del signor Fracas, giusto? Cabras, di Forza Nuova Toscana. No, del filosofo. Del filosofo Fusaro, allora, Fusaro. Fusaro. Sì. Allora, ha ragione in fondo su quello che sta dicendo, perché per capire un po' come sta girando il mondo, è un po' sociologo, un po' filosofo, un po' politico e un po' un economista. E purtroppo nel bel paese la gente parla senza avere le basi, quindi in fondo il suo discorso è vero, siamo nell'era del capitalismo, della mondializzazione, ed è un po' così che sta girando. Per quel che riguarda invece l'intervento del signor Capras, non commento neanche, perché ormai per me gente che pensa in questa maniera sono una minoranza, e quello che ha detto non aveva nessun fondamento. Insomma, cioè, tu non puoi averla con qualcheduno che dice: questi sono i miei amici e quelli no. Io ho il diritto di dire chi è il mio amico e chi la pensa diverso da me può essere anche un amico, però posso dire che non sono d'accordo con lui. Quindi questo è il secondo intervento. Per quel che riguarda invece Roma, mi trovo completamente d'accordo con lei. Io sono stato naturalizzato, ho passato 20 anni della mia vita in Marocco e 20 in Italia. Sì. Mi sento italianissimo e come mi sento super marocchino, un cittadino del mondo. Mi trovo d'accordo con lei sul fatto che bisogna sgomberare, è una cosa fondamentale, e bisogna trovare delle soluzioni, e come dice lei, le soluzioni per trovarle bisogna avere le capacità di trovarle. E qua mi ricollego al discorso della politica in Italia. Penso che ci sia tanta gente che non sa minimamente cosa sia la politica, che è purtroppo maggioritaria nel mondo della politica. Quindi io consiglio vivamente che si inizi a ragionare, a lasciare spazio a gente che è molto più globale, molto più universale e molto più preparata per risolvere problemi che possono all'apparenza sembrare grossi, ma in realtà non sono grossi. Finisco. Io mi occupo di Expo. Devo chiudere però, devo chiudere. Mi spiace Ibrahim, grazie, buona serata. C'è il GR, torniamo tra poco. Il terrorismo permette all'Occidente reazioni terroristiche. Le guerre imperialistiche di annessione ad opera della monarchia talassocratica del dollaro non vengono più percepite per quello che sono, cioè come ingiustificate aggressioni imperialistiche nello spazio geopolitico open space della mondializzazione dopo l'89. Il segnale orario vi è offerto da... A tavola! Che pizza! Roncadin! Che pizza! Roncadin, nel banco freezer! Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta... Si può fare. Cronache da un paese migliore. Magari a volte sono un po' esagerati, nel senso se uno scriveva no, no ai profughi, ecco, forse era più corretto, ma non penso no, a niente di razzismo. Infatti vediamo che qui nonostante tutto c'è tutto tranquillo e la cosa penso che sia già finita, anche se rimane comunque il malumore nella gente. La protesta ci sta e mi sento anche di sostenerla per 15 profughi qua dentro nella ex scuola elementare, tra l'altro tengo a precisare dove io ho fatto le elementari qua dentro, vederla adesso occupata dai profughi effettivamente mi dà un po' fastidio anche a me personalmente. E questo era il sindaco di Borgonovo Valtidone, Mazzocchi, sulla questione di Breno, dove è apparsa la scritta Breno dice no ai neri, alle COP e all'invasione, perché erano attesi alcuni migranti minorenni che dovevano essere ospitati nell'ex scuola. E cari ascoltatori, 800 24 00 24, siamo qua ancora fino alle 20. E qua c'è un messaggio che arriva al 349 238 6666. Che di un ascoltatore che dà bene purtroppo l'esempio di quello che dicevo quando parlavo con Cabras, il responsabile di Forza Nuova in Toscana, cioè che andare dal prete a vigilare perché non ti sta bene quello che dice nella sua predica da parte di un movimento di ispirazione neofascista, che vuol dire immaginare, anche semplicemente immaginare di voler intimidire come si faceva ai bei tempi, minacciare, impedire agli altri di dire la propria. Il prete in parrocchia dice quello che gli pare, questo in un paese libero. Il messaggio è questo. Questo Don Massimo va preso e messo al muro senza processo come si usava ai bei tempi. Questo, caro ascoltatore, che fai bene a non firmarti perché altrimenti verresti tu appeso al virtuale muro nostro di questa sera con gli ascoltatori, il muro virtuale di Radio 24. Questo è, come definirlo, è l'imbarbarimento, la vergogna massima, no? Augurare a un prete di la morte, questo, perché ha postato una foto in una quale ha portato dei profughi in piscina. Uno può essere contrario all'immigrazione, può essere razzista, a me i neri mi fanno tutti schifo, tutto quello che ti pare, però augurare a un prete la morte, o immaginarsi addirittura di volerlo minacciare o fargli chissà che cosa, questo è l'imbarbarimento. Vergognatevi voi che scrivete queste cazzate e riscrivilo col nome e cognome se hai il coraggio. Ti aspetto. Intanto, mentre si discute ancora di abusivismo a Ischia, Sgarbi va a Francavilla per contestare l'abbattimento di un palazzo che deve essere demolito. Amici di Francavilla, chiamateci per spiegarci cos'è questo palazzo, perché Sgarbi è andato lì a difendere questo palazzo che il comune vuole demolire, però poi lui stesso si è preso degli insulti. Sentiamo. A Francavilla al mare ci sono mille cose da fare che tu non hai fatto. Non si parla della tua città da quando sei sindaco, perché non hai fatto nulla. Che cosa porta la città? Veder buttare giù un palazzo per vederne sorgere poi un altro schifoso come quelli che sono sorti a Pescara. Tu butti giù questo e hai un progetto più bello? È uscito dal tuo buco del culo. Allora, è con noi Gianandrea Gaiani, direttore di Analisi Difesa. Buonasera. Buonasera, buonasera a voi radioascoltatori. E benvenuto. Allora, controllare, prevenire i terroristi, potenziali radicalizzati, a cominciare dalle moschee, dai centri culturali, si dice ogni volta dopo un attentato. Cosa sappiamo oggi in Italia dei rapporti tra gli estremisti, l'estremismo islamista e i centri culturali islamici che ci sono in Italia, Gaiani? Ma noi sappiamo da un rapporto molto interessante che ha avuto anche un'ampia eco, che ha fatto Michele Groppi già nel 2015, che gli ambienti islamici, diciamo estremisti, sono aumentati. Erano 108 nel 2015, qualche mese fa proprio a Radio 24 fonti vicine ai nostri servizi di sicurezza parlavano di un migliaio di ambienti islamici tenuti sotto controllo. Il problema non è italiano, se guardiamo la Catalogna, certo, l'ultimo fronte della guerra al terrorismo. Catalogna, 400.000 islamici, 50 moschee in mano ai salafiti, che per intenderci sono quelli che predicano lo stesso Islam di Al Qaeda o dello Stato Islamico. Allora il problema vero qual è? Che noi continuiamo a combattere il terrorismo in una guerra che abbiamo perso in partenza, perché il nostro nemico deve essere sì il terrorismo, ma prima ancora l'estremismo. Se noi tolleriamo nelle nostre città che ci siano centri culturali, moschee più o meno legali in mano a esponenti di quell'Islam estremista, che è quello salafito, io si considero anche come estremisti i Fratelli Musulmani, a cui si rifà Erdogan, che oggi ha stabilito in alcune città, era sulla stampa, gli autobus separati per le donne. E se noi tolleriamo l'estremismo islamico, è chiaro che poi in questi covi, oltre che sul web, si fa proselitismo per il jihad. Allora poi ci troveremo a inseguire quei terroristi che sono già terroristi, ma invece la prevenzione dovrebbe indurci forse a colpire gli estremisti perché non producano, se mi passi questo brutto termine, i terroristi di domani. Perché i potenziali terroristi, i radicalizzati, quelli che poi diventano veri terroristi, in alcuni casi si è saputo, avevano frequentato certi centri culturali, in altri casi magari non erano neanche mai stati in moschea. Però il punto è che c'è spesso, e questo su cui bisogna alzare un muro, una terra grigia, una zona di mezzo nel quale si tollera un certo estremismo verbale da parte di imam, che poi in Italia esiste il sistema delle espulsioni, fortunatamente, sì, che è, sì, può essere quella terra di mezzo che un po' come era con il terrorismo negli anni 70 in Italia, il terrorismo rosso, che dava sostegno logistico, anche un apporto morale, culturale qualche volta, vero, ai terroristi. Bisogna intervenire lì, è quello che diceva lei. Però lei dice anche che noi abbiamo avuto una generazione di imam marocchini piuttosto moderati, che adesso però sta, tra virgolette, andando in pensione, sostituiti appunto da qualcosa di nuovo che ci deve impensierire di più. Sì, perché era quella, con la prima immigrazione che arrivò dal Maghreb, e che erano essenzialmente operai che venivano a lavorare, io sono emiliano, nelle fonderie in zona, nella zona di Reggio Emilia, arrivarono anche quegli imam moderati della tradizione marocchina. Ma c'è un'invasione in Europa che, di cui nessuno parla, e che non è quella dei barconi o dei gommoni, dei migranti, è un'invasione di un Islam non tollerante, di un Islam estremista che ha due filoni, parliamo di Islam sunnita in questo caso, che è quello dei fratelli musulmani sostenuti da Erdogan, dalla Turchia, dal Qatar, e l'altro filone è quello salafita, wahhabita, sostenuto da alcuni altri emirati e soprattutto dall'Arabia Saudita, con pesanti investimenti anche per costruire moschee e indottrinare imam. E questo Islam che sta prendendo piede, appunto, sì, è un Islam che non è pericoloso, a mio parere, per la nostra democrazia. Faccio un esempio rapidissimo: sì, in Germania Erdogan sta contestando, sta dicendo ai turchi, ai tedeschi che hanno il passaporto tedesco e voteranno, circa 1 milione voteranno, di non votare per i partiti, per alcuni partiti più importanti tedeschi, e guarda caso sono nati due partiti di ispirazione fratellanza musulmana vicini alla Turchia, filo turchi. Ce n'è già uno in Olanda che siede in Parlamento e ha preso il 2,1% alle elezioni della primavera scorsa. E ovviamente io ti ricordo il fatto che nessun paese islamico ha mai sottoscritto la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, perché non è compatibile con la Sharia, e che invece è la base della nostra società e anche delle costituzioni, al fondo, sì, di tutti i paesi europei. E questo dovrebbe un po' preoccuparci, non solo sul fronte del terrorismo, che il terrorismo è forse la minaccia più grave, più drammatica che noi viviamo, ma di tutti i rapporti che dovremmo poi rivedere con una componente islamica che rifiuta quelli che per noi sono valori fondamentali, ad esempio l'uguaglianza. Fino ad oggi, dicevamo, l'Italia ha avuto il sistema ha utilizzato il sistema delle espulsioni, alcune decine, ma alcune centinaia direi negli ultimi anni, più di cento nell'ultimo anno. Trovi un predicatore di odio, uno che inneggia l'ISIS in carcere o altrove, e lo puoi espellere nel suo paese d'origine. Un sistema che possiamo dire sta funzionando, ha messo l'Italia forse al riparo anche da qualche rischio? Ma io penso che l'Italia abbia due vantaggi quando ci si chiede perché noi finora ci siamo salvati. Intanto ci sono stati degli attentati che abbiamo sventato, quindi i servizi di sicurezza funzionano. Ma io credo che un nostro grande vantaggio sia appunto quello che, quando troviamo degli estremisti, sono per lo più di cittadinanza straniera e li possiamo espellere, cosa che ad esempio i francesi, i belgi, gli inglesi, i tedeschi, che hanno già un'immigrazione islamica seconda o terza generazione, e che proprio in questa fase, in questa fascia sociale, vede ampissimi strati di persone, parliamo un quarto, un terzo, che pubblicamente in sondaggi di istituti di ricerca serissimi dice chiaramente di non riconoscersi nelle leggi dello Stato, ma di riconoscersi in uno Stato francese, britannico, quello che è dominato dalla Sharia. E quindi insomma cominciamo ad avere delle percentuali di potenziali fiancheggiatori di estremismo e terrorismo che non sono indifferenti. Allora, in quest'ottica, attenzione quando regaliamo cittadinanze, e in molti casi le regaliamo, perché ho visto persone con la legge attuale che ha passato i test per la cittadinanza e non era in grado di leggere la formula di 5 righe nella quale prendi la cittadinanza. Attenzione quando parliamo di ius soli, perché questo vantaggio che noi abbiamo sui nostri partner europei, che non possono espellere, i francesi hanno 15.000 sì, cittadini Fish S, pericolosi terroristi, non li possono espellere perché sono francesi. Hollande disse dopo la strage di Parigi gli toglieremo la cittadinanza, non l'hanno mai fatto. Attenzione a fare queste valutazioni soprattutto per la componente islamica, perché poi potremmo trovarci presto ad avere gli stessi problemi dei nostri partner europei. I loro errori dovrebbero in qualche modo darci qualche indicazione. Però poi, diciamo, su due piatti della bilancia c'è quello che dice lei, sì, dall'altra parte c'è la necessità, come dire, di agevolare la vita di migliaia di bambini, perché poi di questo si parla. Lo ius soli di cui si sta parlando adesso in realtà è una legge che garantisce la cittadinanza, sì, a il bambino nato in Italia, se ha meno di 2 genitori stranieri da 5 anni in Italia, o se si è concluso un percorso di studio di 5 anni. parla dei bambini della legge, però lei dice che questo potrebbe comunque come dire, vanificare lo strumento in futuro delle espulsioni? Io penso due cose in proposito. La prima è che la legge attuale già consente, dopo 10 anni, ai genitori che chiedono di essere, di diventare italiani e superano i passaggi per diventarlo, a cascata di dare la cittadinanza ai loro figli. E penso questo invece, penso al sondaggio dell'Istituto Montaigne, l'inchiesta che ha fatto l'Istituto Montaigne in Francia fra i giovani francesi islamici fra i 15 e i 25 anni, fatto nelle scuole, nelle università, dove il 55% di questi appunto diceva: noi non ci sentiamo francesi, non ci riconosciamo nella Repubblica, vogliamo la Sharia islamica. E quindi io questo, in un momento come questo, per l'Europa, per l'Italia, farei molta attenzione a creare un meccanismo, qualunque tipo di meccanismo, che riconoscano la cittadinanza in maniera troppo facile e automatica, e non attraverso un percorso in cui si debba dimostrare di volerla innanzitutto, perché c'è tanta gente anche che non la vuole, e anche di meritarla. E come? Non perché si è bravi o perché si ha un colore della pelle o una fede particolare, ma perché si condividono i valori su cui noi ci basiamo. Io ad esempio sono convinto che l'Europa non dovrebbe accogliere immigrati che vengono da paesi che non hanno firmato la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Per forse esempio, te lo ricordi, la studiavamo a scuola, primo articolo 1, ogni essere umano nasce libero. Nessun paese islamico l'ha mai firmato. Nessun paese islamico? Nessun il Marocco islamico non l'ha firmato? La Tunisia nessun non l'ha firmato? Paese islamico non l'ha firmato paese perché migliore. Non è compatibile con i precetti coranici e la Sharia. E mi sembra questo un punto sul quale dovremmo aprire una serie di discussioni. Dovremmo praticamente chiudere rispetto a quasi tutti i paesi di immigrazione in Italia. Sono paesi su cui poi, se hai bisogno di immigrati, io in questo momento, cioè, oltre non Trump, vedo oltre Trump grande... praticamente. No, ma è questione di Trump, è una questione di difendere quelli che sono i valori della nostra società, che non ce li hanno regalati. Assolutamente. Di Maio, di Maio ha detto che, per esempio, per quanto riguarda Roma, il caso di questi profughi che hanno avuto la protezione, il visto, eccetera, eccetera, qualcuno forse sta facendo anche documenti per la cittadinanza, andrebbe tolta lo status di profugo a chi, per esempio, è stato beccato a tirare le bombole e il gas addosso ai poliziotti. Guarda, la Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 51 dice che non si può negare l'asilo a chi scappa da paesi in guerra, però prevede un meccanismo che è quello di raggiungere il primo paese in pace nei campi profughi, fare domanda d'asilo. Noi non ne parliamo mai, ma ci sono decine di migliaia di siriani accolti in Gran Bretagna, Stati Uniti, Canada, persino in Australia, che come sai è abbastanza chiusa sull'immigrazione, perché seguono questo percorso che è quello legittimo previsto dalla Convenzione, che non prevede la Convenzione che uno passi otto frontiere illegalmente pagando criminali per andare dove pare a lui. Questo non è previsto dalla Convenzione. Tra l'altro, un altro aspetto importante è che la Convenzione di Ginevra consente di negare, di buttare fuori anche chi ha diritto all'asilo, qualora compia azioni criminose, qualora diventi un problema per la sicurezza e l'ordine pubblico. Io credo che tutti quelli che hanno aggredito poliziotti, devastato centri d'accoglienza per ragioni spesso futili, come la qualità del cibo, che voglio dire, se scappi da un paese dove si muore di fame probabilmente puoi anche accontentarti, tutti quelli che compiono violenze non dovrebbero essere accettati in Italia, anche perché sennò poi ci ritroviamo con la situazione paradossale che l'Italia diventa, per chi parte dall'Africa, io 3 anni fa ero in Niger a vederli partire, diventa il posto dove tutti pensano che qualunque criminale possa fare la bella vita. E già questo sta accadendo per una certa criminalità europea, della quale facciamo fatica a liberarci perché è europea, è dentro l'Unione. E non vorrei che lo diventasse per la criminalità di tutto il mondo, considerato che dalla rotta libica ormai è diventata un'autostrada del crimine, arriva tutto, gli spacciatori, i papponi, le prostitute, cioè quella di una strada che per fortuna si è interrotta. Rotta in questo momento, speriamo che il governo riesca a mantenere questa posizione, almeno io me lo auguro, ma è diventata un'autostrada del crimine dove hanno trafficato liberamente tutte le organizzazioni criminali. Va bene, devo chiudere borsa, grazie Gaiani, buona serata. 800 24 00 24, ascoltatori, dopo l'intervista al direttore di analisi e difesa su questi concetti che riguardano la prevenzione dei radicalizzati. Intanto però Diego Fusaro ha twittato, il Vate si è espresso, ma non ha twittato su quello che stiamo dicendo noi, ha twittato i suoi ultimi due libri, le sue ultime due fatiche, che sono Pensare altrimenti, filosofia del dissenso, e qua ci sta il dissenso, e l'altro però è, tenetevi forte, è Fichte e la compiuta peccaminosità. Questo è il vostro Beniamino. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, Lucio da Milazzo scrive 349-238-6666. Maurizio, lo vuoi capire o no che i negri noi non li vogliamo e che li ributteremo in mare senza barconi? Complimenti Lucio, intanto li conosco quelli come te, con il coraggio di un topolino, ti vorrei vedere in mezzo al mare affrontare una barca di migranti e cosa sapresti fare che li ributti in mezzo al mare, vorrei proprio vederti, al massimo adesso sarai lì a sorseggiare un mezzo aperitivo da qualche parte o a leccare un gelato, questo è il massimo del coraggio che gente come te sa esprimere, ma sei liberissimo di non volere gli stranieri, di non volere l'immigrazione, però a quelli come me o come Don Massimo, che i negri li vogliamo, soprattutto Don Massimo, io parlo per lui adesso, non ci dovete rompere i coglioni, adesso lo dico chiaramente, perché se lui, Don Massimo, porta i profughi in piscina, paga il biglietto e nell'omelia vuole parlare dell'accoglienza, lo dovete lasciar fare, voi continuate a dire che gli immigrati non li volete, va benissimo, così, pari e patta. Luigi da Piacenza, vai, buonasera. Pronto, buonasera, mi sente? Forte e chiaro. Perfetto. Senta, io ho sentito prima la dichiarazione del direttore che in merito alla dichiarazione dei diritti dell'uomo diceva fosse per me io non farei entrare all'interno del paese persone con una nazionalità di paesi che non hanno riconosciuto questa dichiarazione. Sì. Non so quanto sia una scelta intelligente, nel senso che secondo me dovrebbe essere una responsabilità personale di chi entra in Italia, non dovremmo secondo me metterle in relazione alla nazionalità. È vero, però è come ributtare un peso, è come ributtare un peso nella palla dell'avversario, no? Cioè una palla nel campo dell'avversario, a dire se tu sei un paese che non rispetti, questa è la logica di Gaiani, no? E la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, allora con te non faccio accordi, però non basta, sono d'accordo anch'io, farla cadere addosso alla singola persona, quando invece magari poi con quel paese fai accordi commerciali, economici, fai tutto il contrario di tutto, poi dici sì, ma i tuoi cittadini non li voglio, quella è ipocrisia. È un atteggiamento abbastanza ipocrita, esattamente. Tra l'altro faccio un caso che potrebbe verificarsi, cittadino che arriva dagli Stati Uniti di religione islamica, che non è d'accordo con la dichiarazione dei diritti dell'uomo, può entrare. Cittadino di non so, nazionalità, che ne so, indonesiana, per dire, che è il paese musulmano più grande del mondo, di religione cristiana, non può entrare perché l'Indonesia non ha riconosciuto quella dichiarazione. Mi sembra abbastanza assurdo. Va bene, grazie, buona serata. Giorgio dalla provincia di Pavia, vai. Sì, buonasera. Buonasera. Io volevo esprimere qualche mia esperienza di lavoro che ho avuto con degli extracomunitari. Fino a qualche anno fa lavoravo, avevo un'attività, pertanto davo qualcosa da fare, dispiaceva sì. Vederli in giro, fare niente e così via. Però ho notato una cosa, che una buona parte, per non dire la maggior parte di quelli che ho interpellato, io ne conosco una trentina, se non qualcuno in più anche, mi hanno raccontato le loro vicende, da quando sono venuti in Italia con i barconi sì. E mi hanno spiegato come facevano, chi con i canotti, chi con i barconi, e pertanto quando vedevano le navi straniere, siccome accendevano gli idranti e li tenevano lontani, allora andavano a cercare le navi che battevano la bandiera italiana, perché sapevano che erano, diciamo, accolti. Io ho parlato con questi ragazzi qua, che alcuni gli ho dato da fare dei lavori, e pertanto e si sono dimostrati, diciamo, benevoli, accettato il lavoro, però mi hanno raccontato alcune cose che mi hanno dato un po' fastidio. Io loro chiaramente ho sempre provveduto a fargli fare qualche cosa, però quando vengono, mi hanno raccontato che quando loro sbarcavano in Sicilia, per dire, c'era già chi li istruiva come loro dovevano comportarsi. E chi è che li istruiva? Chi era? Come? Chi è che li istruiva su come comportarsi? Delle persone che li accoglievano, sì. No? quando venivano accolti c'era della gente che era già lì nel posto, degli altri extracomunitari, che gli istruivano cosa loro dovevano chiedere, cioè gli dicevano tutto quello che erano i loro diritti delle richieste. Sì, quindi Giorgio, quindi andando a sintesi del tuo intervento, eh? Allora, del mio intervento è che su 30 persone che ho conosciuto, sì, 10 lavorano, altre invece cosa facevano? Aprivano una partita IVA, no? Pur di lavorare, chiaramente non denunciavano, facevano la loro fattura, non denunciavano il lavoro eseguito, il lavoro fatto, no? E intascavano anche i soldi dell'IVA, ma fino lì poco male. Il discorso è che la partita IVA, la vita che loro aprivano principalmente, non serviva tanto per il guadagno, ma serviva per dare la possibilità di assumere altra gente di loro, no? Altre persone, sì, di loro, di modo che avessero la possibilità dell'abitabilità, no? Va bene, va bene, ho capito, ho capito. Grazie Giorgio. Titoli, andiamo con i titoli del, credo, TG3. Dopo gli scontri migranti polizia, bufera sulla giunta Raggi, il PD accusa Comune di Roma inesistente e inadeguato, Di Maio, la sindaca, deve occuparsi soprattutto dei romani. Pistoia, parroco reca la giornata premio in piscina ad alcuni migranti, Forza Nuova lo intimidisce, vigileremo sulla sua dottrina, la curia vogliono profanare un sacramento. Elezioni siciliane, Lega, il nostro candidato è Musumeci, Berlusconi perplesso, Leoluca Orlando al TG3, chi boccia il candidato unitario del centro-sinistra si condanna alla sconfitta. Confindustria al governo, servono più risorse per garantire piena decontribuzione fiscale per i primi 3 anni, solo così sarà possibile assumere 900.000 giovani. Lutto cittadino ad Ischia per l'addio alle 2 donne rimaste uccise nel terremoto del 21 agosto. La procura apre un'inchiesta, acquisiti in comune documenti sui condoni di Casa Micciola. La numero uno della Federal Reserve, Yellen, difende le regole contro gli abusi della finanza. Un messaggio a Trump che vuole cancellarle per accontentare Wall Street. Eccoci qua, Adriano chiama da Lucca, benvenuto, buonasera, vai. Sì, grazie. Allora, no, un inciso a proposito dei 5 Stelle, sono formidabili, La Raggi dice che deve preoccuparsi soprattutto dei romani, bene, cittadini di serie A, serie B, serie C, e quando gli torna bene bisogna occuparsi degli extracomunitari, quando gli torna meno bene soprattutto dei romani, sono dei cialtroni, inciso, basta, stop, chiuso. Volevo dire a proposito degli immigrati, io sono dell'opinione che gli immigrati vanno accolti però in proporzione a quella che è la capacità di accoglienza del paese. Ora è vero che noi siamo 60 milioni e ne sono arrivati se no 200.000 quest'anno, voglio dire, no? Non sono ancora, sono meno dell'anno scorso. Adesso c'è stato un calo a luglio, c'è stato un calo. Come? C'è stato un calo a luglio, però erano comunque c'è stato quella grande affluenza di 7-8.000 per 3-4 giorni, che sembrava che dovesse arrivare tutta quanta l'Africa da noi, no? Poi dopo anche perché, voglio dire, sembra che anche loro hanno capito che la Libia non è il posto ideale, quindi si stanno trasferendo là verso la Spagna, no? Ecco, quindi dicevo che vanno accolti, o che siano bianchi, o che siano negri, o che siano a pallini, a pua, gialli, rossi, neri, vanno accolti anche perché ne abbiamo bisogno, voglio dire, stiamo invecchiando, abbiamo bisogno di sangue giovane, ragazzi. Si fanno delle politiche economiche favorevoli. Però scusa Adriano, però ci sono tanti giovani italiani che cercano lavoro e non lo trovano, ma e qualcuno trovano dice perché, giustamente perché questi si offrono a prezzi più bassi. Non hanno la specializzazione giusta. ci stanno cercando oltre 100.000 persone con specializzazione per l'industria 4.0, non li trovano, 100.000 persone sono tanti, ma la gente non ha più voglia di sacrificarsi, non ha più voglia di studiare, si sta meglio a casina sua sul divano a guardare la televisione, giocare con i giochini e giocare con l'iPad. Non c'è più spirito di sacrificio, non c'è più spirito. Tu che lavoro fai, Adriano? Tu ce l'hai un lavoro, Adriano? Che lavoro fai? Io sono in pensione, sono un medico in pensione. E hai figli? No, purtroppo no. Vabbè, basta, allora chiusa la discussione. Grazie, buona serata. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, adesso ci rilassiamo un po' tutti e parliamo di una cosa che ci accomuna tutti, le tasse, perché ci sono quasi 800.000 persone che hanno ricevuto in queste settimane degli avvisi di pagamento, degli avvisi di soprattutto di regolarizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate per regolarizzare al catasto degli immobili una serie di edifici o ruderi, più il caso di dire tante volte rurali, che possono essere grotte, cantine, baite in montagna. Cioè una baita in montagna, ecco, devi pagare le tasse normalmente come se fosse la casa al mare. E allora noi abbiamo convocato Marco Bussone, vicepresidente della nazionale della comunità enti montani. Buongiorno, buonasera ai radioascoltatori. Vicepresidente della nazionale comuni, comunità ed enti montani, che poi uno dice ma le comunità montane anche qua non le avevamo abolite, vabbè, ma insomma siete ancora lì, insomma, in sostanza. L'Italia ha un territorio fatto da almeno 8.000 comuni, di cui 4.000 sono montani, sì. Anche Appennino, le comunità montane non ci sono più, ci sono le unioni montane di comuni, aggregazioni di comuni che lavorano insieme. Esatto. Senta, ma come, insomma, so che questa questione per chi ha una baita in montagna, magari costruita dal nonno, diroccata, in pietra, l'idea di pagare l'IMU su una roba del genere fa orrore. Quindi per voi cos'è, l'ennesima persecuzione fiscale o non è una semplice regolarizzazione, come dice l'Agenzia delle Entrate? Ma l'Agenzia delle Entrate ha mandato agli 800.000 italiani queste segnalazioni di immobili non accatastati da accatastare, che certamente è una necessità. Peccato che però le regole previste comportino degli oneri per i cittadini. Come UNCEM abbiamo chiesto che questi oneri vengano azzerati in funzione di un fatto. Stiamo parlando di ruderi, la maggior parte dei casi ruderi immobili di basso pregio, di bassissimo anche valore. Quello che i cittadini si troverebbero a pagare, circa 150-200 euro, fino a 8.000 se uno non fa questi ravvedimenti. Fino a 8.000 euro? Fino a 8.000 euro in caso questo ravvedimento sanzione. Non venga fatto come sanzione. Sì. E poi quello che va a pagare ogni anno, perché poi una volta che sono accatastati, in mancanza di una riforma del catasto, il nostro paese è da 20 anni, forse più, che aspetta una riforma generale del catasto che riveda gli estimi, riveda i valori catastali, finirebbe comunque senza una riforma che pochi ruderi, poche pietre sì. Vanno a pagare quanto un immobile residenziale in centro a Torino, Milano. Di che tipo di costruzioni stiamo parlando? Ma nella maggior grandezza. Parte dei casi, se pensiamo alle Alpi, stiamo parlando di baite che hanno ancora un tetto, che hanno quattro mura, sono immobili molto piccoli che erano stati abbandonati con l'abbandono della montagna negli anni, dagli anni 20 agli anni 90, diciamo, quando sì. C'è stata la grande fuga verso le aree urbane, verso le metropoli. E oggi quegli immobili hanno un valore molto scarso, si calcola dai 50 a 100 euro al metro quadro. E teniamo presente una cosa, che noi abbiamo sempre lavorato molto sul tema del recupero di questi immobili. Cioè come questi immobili all'interno di un percorso di rigenerazione possono tornare a vivere. Lei pensi che negli ultimi anni abbiamo seguito progetti di privati e anche di enti pubblici che ridanno vita a queste borgate, perché poi si tratta di immobili isolati, ma non solo. E queste borgate tornano a vivere con dei progetti di recupero che fanno bene a quei territori. Lei pensi un borgo che era stato abbandonato, che con un'opera di ricostruzione, restauro, rigenerazione torna a essere un cuore pulsante, una comunità. Però in questo caso, scusi, uno che la baita magari non ce l'ha, no? Anche pur stando in montagna, e dice però, allora in questo caso è giusto che venga, ci sia anche il pagamento. Infatti, di una tassa. L'accatastamento è importante, cioè il percorso individuato dall'Agenzia delle Entrate è corretto, cioè ci deve essere un accatastamento. Però attenzione, quello che noi abbiamo ribadito anche al ministro Padoan, a cui abbiamo chiesto un incontro urgente, e che ci troviamo poi o di fronte, in molti casi di fronte ad errori, e in altri casi a situazioni per cui vi sono delle persone che questi ruderi non li usano e finiscono poi per abbatterli o togliere il tetto per non pagare queste imposte. Cioè, quindi da una soluzione cioè, diventa che si può secondo cercare, voi controproducente, invece di poter utilizzare queste baite per recuperare alcuni di questi borghi, si spinge qualcuno addirittura a tirarli giù pur di non pagare, pur di non, ma mettiamo una baita di, che ne so, 40 metri quadri, adesso dico, io non sono mai stato in una baita in montagna, forse in qualche rifugio sì, 40 metri quadri mi sembrano già tanti. Quanto dovrebbe pagare di IMU, per esempio? Beh, di IMU adesso dipende dai valori dei comuni, comunque potrebbe arrivare a pagare sui 500, anche 1000 euro all'anno, poi se viene inquadrata come seconda casa evidentemente di più. Beh, a queste cifre posso anche capire che qualcuno che non ce l'ha 1000 euro all'anno per pagare la tassa sulla baita possa essere indotto a fare quello che dice lei, ma sta accadendo che qualcuno abbia effettivamente tirato giù tutto? I sindaci sono i front office dei cittadini, e i cittadini in molti casi hanno segnalato ai sindaci questo problema. Il fronte non è soltanto di protesta, ma quello che noi abbiamo chiesto è una proposta. Abbiamo fatto una proposta operativa, cioè diamo degli incentivi per recuperare questi immobili. Oggi in Italia esiste l'ecobonus, esiste il bonus per le ristrutturazioni. Aumentiamo anche questi incentivi per recuperare pezzi di territorio. Però mi sembra, mi sembra che non sia molto aria, Bussone, perché se il fisco viene a chiedere di pagare l'IMU per la baita, non so se c'è aria di incentivi. sono due percorsi paralleli. Sì. Le regioni, come ad esempio il Piemonte, la Lombardia, negli ultimi anni hanno fatto dei grandi passi avanti su questo tema, cioè si è capito che il territorio, quel territorio se montano, presidiato, quindi dove le persone tornano a vivere anche a coltivare, è una ricchezza. Lei pensi anche nelle aree del cratere sismico, pensi in Sardegna dove interi paesi delle aree interne si spopolano, no? Ci sono delle attenzioni maggiori. Io posso segnalare che la strategia nazionale sulle aree interne, come UNCEM abbiamo e stiamo seguendo, è decisiva. Ci sono 190 milioni di euro da spendere anche per rigenerare porzioni di territorio abbandonati. Quindi il tema dell'accatastamento si deve accompagnare a un percorso di supporto, sostegno a chi vuole recuperare, che siano enti pubblici, che siano privati cittadini. O se no si fa pari e patta, non mi chiedi l'IMU e io non ti chiedo l'incentivo, ma tu non mi chiedi l'IMU. No, questa è solo una battuta, perché in realtà ormai l'accatastamento è richiesto, la lettera è arrivata, quindi anzi addirittura chi ha ricevuto questa lettera è meglio che si muova, perché se no, come diceva lei, poi c'è la sanzione, no? E quindi lì rischia addirittura, oltre al danno, la beffa di andare a pagare chissà quante migliaia di euro. Grazie Bussone, buona serata. Grazie. Grazie a lei, buonasera. E allora, questa era la situazione per quanto riguarda le baite in montagna, ma anche cantine e grotte. Luciano dalla provincia di Lucca, vai. Sì, buonasera. Buonasera. Entrando nel termine dei migranti, poi potrei dire tante cose, comunque insomma il tempo è ristretto, vorrei dire questo. Tanto inviterei, se fossi Salvini della Lega, perché io voto Lega, non mi vergogno a dirlo, che tanti italiani che sono poveri, indigenti, che vogliono dai parroci e dire se li possono accogliere, però l'italiano povero non ha le 38 euro 35 che hanno i migranti, quindi aiutate anche noi, anche con bimbi piccoli, di cui io ora non voglio fare tanti nomi, mi sono trovato in difficoltà con i figli che sono senza lavoro ed essendo titolati di partita IVA non hanno nessuno incentivo da parte della regione, del comune, anzi in difficoltà perché possono anche togliere i figli. Quindi Luciano, ma tu che lavoro fai? Io sono pensionato, la madre che ho 70 anni, sono garante come nonno, devo essere garante perché sennò avevano anche dei problemi a tenere i figli piccoli che sono senza lavoro. Cioè i tuoi nipoti? Sì, perché partita IVA, non un ex commerciante, non gli viene riconosciuto nulla finché non, nemmeno di iscriversi alle liste, perché per ora c'ha le pendenze da sistemare. Questa è una. Poi se fosse Salvini, da tanti anni mi meraviglio, lui doveva fare, per fare una grande manovra, diceva tutti gli italiani, si va tutti a Lampedusa quando c'erano gli sbarchi, e vogliamo essere portati in Libia, volevo, mandando in migliaia, non 100, in migliaia, tutti a Lampedusa, dice ora noi, loro vengono e noi vogliamo andare là, chi ci porta, che, come ci portate, ecco, avrei messo in crisi il governo italiano, bastavano poche cose, a volte bisogna fare qualcosa di emotivamente forte, come si vede a volte in televisione, come quelli di Roma ora che hanno fatto Casotto. Ma scusi, c'era 4 anni che erano quello stabile lì, lo sapevano tutti, lo sapeva anche quelli che oggi li difendono, il signor, il senatore Manconi che l'ha difeso per 4 anni, se n'è interessato di quella gente lì che oggi era in televisione a fare, questo a anche vero, tutto questo quello anche che vero è successo, la polizia, ma per 4 anni lui dov'era? Va bene, case, va bene, ecco, qui c'è tanta gente che oramai specula perché gli danno lo spazio in media, sono degli emeriti imbecilli, glielo voglio dire, però glielo direi anche facile. No, ogni tanto ci vuole, liberatorio, sono degli emeriti imbecilli, va bene Luciano, grazie, buona serata. Andiamo in chiusura con Paolo da Roma, vai Paolo. È pronto? Sì, prego. Allora, senti, io volevo chiarire questo fatto. Cioè, non capisco la differenza bene fra migranti economici e migranti per necessità, perché noi, diciamo 40 anni fa, quindi non parlo dell'impero romano, abbiamo fatto i migranti economici andando in Libia, sì, andando in Etiopia, andando in Somalia, e siamo andati lì a utilizzare le risorse di questi paesi. Ora, un giovane di quelli che stanno a Piazza Indipendenza, forse magari ha parlato con suo nonno, che ha visto i pennoni delle navi di Mussolini che approdavano in Libia e quindi andavano a sfruttare questi popoli. Quindi, cioè, secondo me bisogna accoglierli, anche perché io non parlo degli imam. Non so quanti di quegli eritrei abbiano memoria di quello che dice lei, Paolo, in Libia, ma insomma. Ma forse hanno parlato con un nonno, magari, no? Allora, sì, io non parlo di questi imam che sono assassini, che sono mascalzoni maledetti, però bisognerebbe anche chiedersi perché un giovane di 20 anni, invece di correre dietro alle ragazze, si fa esplodere, si fa saltare in aria. Cioè, bisognerebbe chiederselo questa cosa, no? Paolo, io devo chiudere, grazie, buona serata, grazie anche a te Paolo, buona serata, ciao. Io ringrazio naturalmente Alessandro Longoni, Matteo Ramelli, Andrea Spenuso in redazione, Roberta Frisani in regia, ci risentiamo lunedì prossimo ancora per una settimana, 18:20 si può fare, ciao, buona serata da Alessio Maurizi e buon weekend, ciao.